Nuova settimana, Drago, nuova settimana, oggi è lunedì. Sì, questa invece è una tecnica imparata dal Machu Picchu. Ma il Machu Picchu in Perù? Credo asilo. Bentornati in Perù, un saluto da Kappa. Un saluto da Drago. Come si dirà asilo in peruviano? In peruviano, in lingua peruviana, non lo so. Non sappiamo. In spagnolo chi lo sai tu però. Può lasciare un messaggio alla nostra segreteria telefonica al numero 02. Nessuno lo sa perché c'è scritto dappertutto. È il numero più il difficile numero verde del mondo perché sono tutti da qualche parte c'è, ma non lo so. Aspetta, allora vabbè. 02. Sì. Ci sentiamo fra poco quando abbiamo trovato il numero. Il numero a cui lasciare la vostra risposta per il nostro simpatico quiz sulla lingua spagnola, peruviana. È 02-46-52-4495. E allora cominciamo con la cultura. Col prefisso del Perù, però. No, vabbè, con la cultura. Cominciamo con la cultura, Kappa, sei contento. Cultura e bocca cul di gallina. No, ma cos'è? Parlo di Alberto Arbasino. Che era talmente avanguardia che era neofuturismo, neo-dada, neoteatro della crudeltà. Il bambino Alberto più prestigioso che ci sia. Sì. Diciamo che forse il bambino Alberto più famoso. Forse. Ci possiamo vantare proprio di quelli bambino vivi, Alberto Arbasino. Di quelli vivi, sì, perché c'è qualcuno famoso che però purtroppo ormai è morto. La scorsa settimana il bambino Alberto Arbasino è diventato automaticamente l'idolo degli artisti e la bestia nera degli assessori. Quindi cosa, un colpo come gli assessori? Gli assessori sono l'incubo estivo dell'attore, dello scrittore, del giornalista famoso. Sono lo scotto da pagare per poter ricevere un premio o presentare la propria opera o fare un festival. Sì, sai, ma festival. Arbasino cosa c'entra? Arbasino era a Certaldo, vicino a Firenze, per ricevere il premio Boccaccio. Ah, che certo, è un premio Certaldo. A Certaldo, certo. E dove viene anche consegnato questo premio Boccaccio. Caccio, che è un premio molto prestigioso, certo, che negli anni è andato a puntini puntini, e mi ero ripromesso di scrivere i nomi chi famosi. Lo sa può telefonare allo 02-46-52-4495 con il prefisso del Perù e dire quali altre opere sono state premiate al premio Certaldo. No, quali altri intellettuali Boccaccio in passato hanno ricevuto il premio Boccaccio. Vabbè, non importa, in allora, spagnolo però dovete dire. In peruviano. Sì. Allora, il fatto è che questa premiazione, il premio Boccaccio, era fissata due giorni dopo una serie infinita di colazioni, di pranzi e di cene con gli assessori, notabili. Ma è un classico, il festival è fatto di festival, ma soprattutto di cene con politici, assessori. Però scusa, il povero Arbasino, che ha più di 80 anni, lui è stato abituato a frequentare ambienti ben più interessanti, scusa, lui conversava con T.S. Eliot, con Maria Callas. Quindi a un certo punto lui ha interrotto la cerimonia della premiazione dopo due giorni, se n'è andato dicendo che sentiva delle stupidaggini da due giorni e che si era, come dire, seccato. Poi ha mandato a quel paese il presidente della giuria, ha detto proprio la parola vaffanculo, e si è fatto portare in stazione a prendere l'ultimo Frecciarossa per Roma. Proprio una cosa. Potrebbe essere un capitolo di Fratelli d'Italia. Sì, tra l'altro stava proprio arrivando in quel momento, mentre lui mandava a fanculo tutti, stava arrivando Mentana in elicottero, stava atterrando. Sì, Mentana. In elicottero. Beh, allora si capisce perché è andato via. L'idea arriva dall'Illinois, però l'hanno messa in pratica a Dundee, in Scozia. Dundee United. Dundee, bravo. C'è una squadra. Come fai a sapere? Non lo so. Dundee per me è una squadra di calcio. Ce ne sono due, c'è il Dundee e il Dundee United. Ed è una città in realtà. È una città sul mare, certo. Sì. Quattro bambini obesi tra gli 11 e i 15 anni sono stati portati via dagli assistenti sociali e dati in affidamento in via definitiva perché appunto erano obesi. Ma adesso cos'è ti è presa strada di fare le notizie? Che attacchi blocchi con la notiziola come se fossi un giornalista. Intanto tra i due il giornalista sono io. E poi cosa vuol dire definitiva in affidamento perché erano obesi? Sì. Ma cos'è? Beh, una famiglia di obesi, voglio dire, padre, madre, sette figli, tutti obesi. Ma solo perché sono grassi? Sì, pensa che nel 2008 il bambino di 11 anni pesava 100 kg, sua sorella di 10, 76, la piccolina di 3 anni 25 kg, e quindi a madre e padre hanno dato l'ultima possibilità, far dimagrire i figli con un'alimentazione sana e mandandoli a lezione di calcio, danza, scherma, tutte quelle cose lì. Ma non è realistico, Drago, a Dundee, cosa hanno bevuto a Dundee? Infatti è stato tutto inutile. Quindi la famiglia intera è stata sottoposta a un controllo in pieno stile Grande Fratello, capito? Gli hanno messo le telecamere in casa per vedere come alimentavano i bambini. C'erano tutti gli assistenti sociali. È un format TV, veramente. Esatto. Certo. È un miscuglio tra Grande Fratello e SOS Tata, però erano lasciati da soli. No? Vediamo come alimentano i bambini. Niente, l'esperimento è fallito e quindi i bambini sono stati dati in affidamento. Buonanotte. Però se, per esempio, non so, Giuliano Ferrara fosse nato 50 anni dopo... Cosa? L'avrebbero anche lui tolto alla famiglia, affidato ai servizi sociali e messo sotto le telecamere. Giuliano Ferrara sotto le telecamere c'è sempre. Comunque non è che gli sia andata meglio quando era giovane, perché da piccolo l'hanno portato in Unione Sovietica. Ah, già. Ma non perché era grasso. Ah, e perché? Perché suo padre era uno stalinista. Ah, aspetta che giro pagina. Ah, no, basta. E ora, bambini, ricreazione! Ricreazione! Oh, finalmente anche il bambino Alberto, che è un po' di giorni che non lo vediamo, oh, almeno due. Bambino Alberto, uno, come va? Calma, sono stravolto. Da cosa? Non ho chiuso occhio stanotte. Ho avuto il mostro sotto il letto. Il mostro, che mostro? Sì, mostro. E che cosa faceva questo mostro? E niente, stava sotto il letto nascosto, no? Che tu sai che c'è? E lui anche sa che tu sai. Se non fa niente dorme, no? Tu dormi, lui dorme. Ma lui dorme, ma tu come fai a dormire col mostro sotto il letto? Vabbè, come un letto a castello, no? Ce l'avrai dormito con tuo fratello il letto castello. Sei sopra e non vedi chi c'è sopra. Ho capito, faccio, ma io so che è lui, che io magari mi addormento, lui si sveglia. Sì, vabbè, ma guarda, basta far finta di niente, chiudere gli occhi e ci si addormenta benissimo. Quindi se vuoi un consiglio da parte mia, che sono un po' più vecchio. Sì, A me siamo un consiglio un po' così, dato proprio per trattarmi proprio come un bambino. Ma ce l'hanno avuti tutti i mostri sotto il letto, alla lunga però si capisce che basta non pensarci e i mostri vanno via. Se ne vanno, capito? No, perché loro si offendono se non li consideri. Esatto, loro dicono qui non mi caga, quindi me ne vado. No, capito? Povero mostro, adesso, a parte il fatto che abbia paura, io non è che voglio offenderlo. Ma cosa stai dicendo? Ma cosa mica? Allora, non offenderlo, ma non averne nemmeno paura. Ma è un mostro? Ma com'è fatto sto mostro? Ma non lo so, è sempre sotto il letto, no? Però il mostro è lui, perché è lì, nel buio. Guarda, qui vedi, è ora di andare, esatto. Mamma Alberto, mi spiace molto. Mi dispiace anche per volta, il mostro, sì, vabbè, comunque salutaselo, magari. Sì. E portalo in trasmissione una volta. No, ciao. Tu pensa sempre di essere sul letto castello, capito? Tu sopra, lui sotto. Insieme, no? Ciao! Ciao! Sta roba di mostri, E come? Ma è giorno di andare via? Non è venuto nessuno a prendermi. Mamma? Papà? Capa? Drago? Nessuno qua. E noi? Vabbè, resto qua solo. Eh no, da solo no. Qui se resto solo, che so che sono solo, so che c'è il mostro, cioè, mi viene il terrore, no? Infatti c'è, eccolo lì, dietro l'albero che si nasconde. Questo qui. Chi è? Ma Gildo! Dove Gildo? Eri tu il mostro? Beh, già che ci sei, stai qua, no? Alla faccia di quei due là che dirò che sei immaginario. Invece poi nel momento del bisogno. Che vuol dire che qui c'è Gildo, la dimostrazione. Però non ci sono, non possono vedere. Dico l'amico immaginario, guarda qua. Qui la disperazione, il buio davanti al baratro. È arrivato Gildo. E non è finita, no? Cioè, una volta che t'ho visto. Che stonato, Sei stonato. Sono abbastanza. Lui è stonato. Dico, sei stonato là, ecco lì. No! In realtà è un si bemolle, però. Sei stonato. Che è un si bemolle, non è la. Ha fatto un si bemolle come il la. Vabbè, allora fate come questo ascoltatore che ha telefonato allo 02 46 52 44 95 e ha lasciato una bambinata. Beh. Oppure lasciate le risposte agli innumerevoli quiz che abbiamo disseminato in queste settimane. Ad esempio, come si dice asilo in spagnolo? Anzi, no, in peruviano si dice così: guarderia o asilo. Credo asilo.